ad alta voce. Sandra Toffolatti legge Il diario di Etty Hillesum. Traduzione di Chiara Passanti. 3 ottobre, sabato sera, le 9. Se vuoi proprio guarire, devi vivere diversamente. Devi tacere per giorni interi e richiuderti in camera tua e non lasciare entrare nessuno. È l'unico modo. Non va bene come ti comporti adesso. Forse diventerai ancora ragionevole. Si dovrebbe pregare giorno e notte per quelle migliaia. Non si dovrebbe stare neanche un minuto senza preghiera. So che un giorno avrò il dono dell'eloquenza. 4 ottobre, domenica sera. Stamattina Tide, oggi pomeriggio il professor Becker, più tardi Iopis Melik, pranzato con Anna, capogiro e debolezza. Mio Dio, mi dai dei tesori da custodire. Fa che li custodisca e li amministri bene. Tutto questo parlare con gli amici mi fa male ora, mi logora completamente. Non sono abbastanza forte per tirarmi indietro, per trovare il giusto equilibrio tra il lato introverso e il lato estroverso di me stessa. Sarà un grosso compito. I due lati sono ugualmente forti in me. Mi piace aver contatto con le persone. Mi sembra che la mia intensa partecipazione porti alla luce la loro parte migliore e più profonda. Le persone si aprono davanti a me. Ognuna è come una storia raccontatami dalla vita stessa. E i miei occhi incantati non hanno che da leggere. La vita mi confida così tante storie. Dovrei raccontarle a mia volta, renderle evidenti a coloro che non sono in grado di leggerle direttamente. Mio Dio, mi hai concesso il dono di poter leggere. Mi concederesti anche quello di poter scrivere. 1 volta tanto nel cuor della notte. Siamo rimasti solo Dio e io. Non c'è più nessun altro che mi possa aiutare. Ho delle responsabilità, ma non me le prendo veramente. Scherzo ancora troppo e sono indisciplinata. Non mi sento affatto impoverita, ma ricca e in pace. Siamo rimasti solo Dio e io. 8 ottobre, giovedì pomeriggio. Sono ammalata, non ci posso far niente. Più tardi raccoglierò tutte le lacrime e le paure laggiù. In fondo lo faccio già in questo letto. Forse è per questo che ho la febbre e il capogiro. Non voglio essere il cronista di orrori e neanche di fatti sensazionali. Ancora stamattina ho detto a Iopi, eppure arrivo sempre alla stessa conclusione. La vita è bella e credo in Dio. E voglio stare proprio in mezzo ai cosiddetti orrori e dire ugualmente che la vita è bella. E ora eccomi coricata in un angolino con febbre e capogiro e non posso far nulla. Poco fa mi sono svegliata con la gola secca. Ho afferrato il mio bicchiere ed ero così riconoscente per quel sorso d'acqua. Ho pensato, se solo potessi andare in giro fra quelle migliaia di uomini ammassati laggiù e potessi offrire un sorso d'acqua ad alcuni di loro. Ogni volta mi dico, su, non è poi così grave, sta tranquilla. Non è così grave, sta tranquilla. Quando capitava che una donna o un bambino affamato si mettessero a piangere dietro uno dei nostri tavoli di registrazione, mi mettevo dietro di loro quasi a proteggerli, le mie braccia incrociate sul petto, sorridevo un pochino e dentro di me dicevo a quell'esserino rannicchiato e smarrito: tutte queste cose non sono poi così gravi. Non sono proprio così gravi. Rimanevo lì e c'ero, Si poteva far altro? A volte mi sedevo vicino a qualcuno, passavo un braccio intorno a una spalla, non dicevo molto e guardavo le persone in faccia. Nulla mi era nuovo, non una di quelle espressioni di dolore umano. Tutto mi pareva così familiare, come se sapessi e avessi già vissuto ogni cosa. Certi mi dicono: «Hai dei nervi d'acciaio a resistere». Non credo di avere dei nervi d'acciaio. Credo anzi di avere dei nervi piuttosto sensibili, però sono in grado di resistere. Ho il coraggio di guardare in faccia ogni dolore e alla fine di ogni giornata mi dicevo sempre: «Voglio tanto bene agli uomini». Non provavo mai amarezza per quel che veniva fatto loro, sempre invece amore per come degli uomini fossero capaci di sopportare il dolore, ne fossero capaci, per impreparati che fossero, dentro di sé. Mi viene in mente quel biondo Max, dalla testa rasata, su cui i capelli ricominciavano a crescere, e dagli occhi azzurri dolci e sognanti. Era stato così maltrattato ad Amersfoort che non aveva più potuto essere deportato ed era rimasto indietro in un ospedale. Una sera ci aveva raccontato per filo e per segno i maltrattamenti subiti. In futuro ci sarà chi pubblicherà tutti questi dettagli e probabilmente sarà necessario per tramandare la storia di questo tempo nella sua compiutezza. Io non ne sento il bisogno. L'indomani. A quel punto è improvvisamente comparso papà e c'è stata grande agitazione. Mia soave monachina e Don Chisciottismo e Signore, rendimi più desiderosa di capire che di essere capita. Ora sono le 11 di mattina. Jopi dovrebbe essere arrivato a Westerbork. Mi sembra di esserci anch'io. Stamattina devo di nuovo lottare contro tanta impazienza e scoraggiamento. Sono preoccupata per il mal di schiena e per quel senso di pesantezza alle gambe che vorrebbero tanto viaggiare per il mondo, ma non ne sono ancora in grado. Anche questo si farà. Non si deve essere così materialisti. E mentre me ne sto coricata qui, non viaggio forse per il mondo? In me scorrono i larghi fiumi e si innalzano le grandi montagne. Dietro gli arbusti della mia irrequietezza e dei miei smarrimenti si stendono le vaste pianure della mia calma e del mio abbandono. Tutti i paesaggi sono in me. Ho tanto posto ora. In me c'è la terra e c'è anche il cielo. Capisco benissimo che gli uomini abbiano potuto inventare qualcosa come l'inferno. Il mio inferno non lo vivrò mai più. L'ho già sperimentato una volta ed è bastato per una vita intera. Ma posso vivere molto intensamente quello degli altri. Così deve essere del resto, altrimenti potrei diventare troppo autosufficiente. E per quanto possa sembrare paradossale, quando si punta troppo sull'unione fisica, quando si investono tutte le proprie energie nel desiderio della persona amata, in fondo le si fa torto, perché allora non rimangono più forze per essere veramente con lei. Rileggerò Sant'Agostino. È così austero e così ardente. È così appassionato, si abbandona così completamente nelle sue lettere d'amore a Dio. In fondo, quelle a Dio sono le uniche lettere d'amore che si dovrebbero scrivere. Sono presuntuosa a dire che possiedo troppo amore per darlo a una persona sola? L'idea che per tutta la vita si debba amare sempre e soltanto una persona mi sembra così infantile. Può impoverire e inaridire parecchio. Chissà se la gente imparerà che l'amore per la persona reca assai più felicità e buoni frutti che l'amore per il sesso e che questo priva di linfe vitali la comunità degli uomini. Congiungo le mani in un gesto che mi è divenuto caro e attraverso il buio ti dico cose sciocche e serie e imploro una benedizione sulla tua bella testa sincera. In una parola sola, si direbbe che prego. Buonanotte, mio caro. Sabato sera. Credo di poter sopportare e accettare ogni cosa di questa vita e di questo tempo. E quando la burrasca sarà troppo forte e non saprò più come uscirne, mi rimarranno sempre due mani giunte e un ginocchio piegato. È un gesto che a noi ebrei non è stato tramandato di generazione in generazione. Ho dovuto impararlo a fatica. È l'eredità più preziosa che io abbia ricevuto dall'uomo di cui ho già dimenticato il nome, ma la cui parte migliore continua a vivere in me. Ho dovuto impararlo a fatica. È l'eredità più preziosa che io abbia ricevuto dall'uomo di cui ho già quasi dimenticato il nome, ma la cui parte migliore continua a vivere in me. Com'è strana la mia storia. La storia della ragazza che non sapeva inginocchiarsi, o con una variante, della ragazza che aveva imparato a pregare. È il mio gesto più intimo, ancora più intimo dei gesti che ho per un uomo. Non si può certo riversare tutto il proprio amore su una persona sola. 12:10:42. Le mie impressioni sono sparse come stelle sfavillanti sull'oscuro velluto della mia memoria. L'età dell'anima è diversa da quella registrata all'anagrafe. Credo che l'anima abbia una determinata età fin dalla nascita e che questa età non cambi più. Si può nascere con un'anima che ha 12 anni, si può anche nascere con un'anima che ne ha 1000. Esistono ragazzini dodicenni in cui si sente un'anima simile. Credo che l'anima sia la parte più inconscia dell'uomo, soprattutto in Occidente. Penso che un orientale viva la propria anima molto di più. L'occidentale non sa bene che farsene e se ne vergogna come di una cosa immorale. L'anima è diversa da ciò che noi chiamiamo sentimento. Ci sono persone che hanno molto sentimento, ma poca anima. Ieri ho chiesto a Maria a proposito di una persona: è intelligente? Sì, mi ha risposto lei, ma solo col cervello. Esse diceva sempre di Tide: ha l'intelligenza dell'anima. Quando ci capitava di parlare della nostra grande differenza d'età, esse diceva sempre: chi mi dice che la tua anima non sia più vecchia della mia? A volte torno ad accendermi completamente quando, come ora, l'amicizia e le persone che ci sono state in quest'ultimo anno risorgono in tutta la loro grandezza e mi colmano di riconoscenza. Ora sono quel che si dice malata e anemica e più o meno obbligata a stare a letto, eppure ogni minuto è pieno di ricchezza. Cosa succederà quando starò di nuovo bene? Devo ogni volta esultare e acclamarti, mio Dio. Ti sono così riconoscente perché mi hai concesso una vita simile. Un'anima è fatta di fuoco e di cristalli di rocca. È una cosa molto severa e dura in senso vetero testamentario, ma è anche dolce, come il gesto delicato con cui la punta delle sue dita sfiorava le mie ciglia. Di sera. E poi ci sono momenti in cui la vita è dura e così scoraggiante. Allora sono agitata, irrequieta e stanca al tempo stesso. Oggi pomeriggio ho avuto momenti molto creativi e ora ho una spossatezza come se avessi sparso il mio seme. Non potrò far altro che starmene immobile sotto le coperte e aspettare con pazienza che questo scoraggiamento, questo senso di dispersione in tante direzioni, mi passino. Una volta facevo pazzie in situazioni simili. Mi mettevo a bere con gli amici o pensavo al suicidio o leggevo tutta la notte in 100 libri diversi. Bisogna anche accettare i momenti non creativi. più li si accetta onestamente, più essi passano in fretta. Si deve avere il coraggio di fermarsi, di essere talvolta vuoti e scoraggiati. Buonanotte, caro Spino delle Dune. L'indomani mattina presto faccio roteare una matitina come se fosse una falce, ma non riesco a falciare le molte escrescenze del mio spirito. Ci sono persone che mi porto dentro come boccioli e che lascio sbocciare. Ce ne sono altre che mi porto dentro come ulcere finché si aprono e suppurano. Franz Birrenbach. Vorwegnehmen, anticipare. Non conosco una buona traduzione olandese di questa parola. Sono distesa qui da ieri sera e intanto comincio ad assorbire una piccola parte del gran dolore che deve essere assorbito su questa terra. Comincio a mettere al coperto un po' del dolore che patiremo quest'inverno. Non si può farlo in una volta sola. Oggi sarà una giornata molto pesante. Rimarrò a letto con calma e anticiperò una piccola parte dei duri giorni che verranno. Quando soffro per gli uomini indifesi, non soffro forse per il lato indifeso di me stessa? Ho spezzato il mio corpo come se fosse pane e l'ho distribuito agli uomini. Perché no? Erano così affamati e da tanto tempo. Finisco sempre per tornare a Rilke. È così strano, Rilke. Era un uomo fragile e ha scritto gran parte della sua opera fra le mura di castelli ospitali e magari sarebbe stato distrutto dalle circostanze in cui ci troviamo a vivere noi. Ma non è proprio questo un segno di buona economia? Il fatto che in circostanze tranquille e favorevoli artisti sensibili possano cercare indisturbati la forma più giusta e più bella per le loro intuizioni più profonde e che poi, in tempi più agitati e debilitanti, queste stesse forme possano offrire appoggio e protezione agli uomini smarriti, ai turbamenti e ai problemi che non trovano forma o soluzione perché ogni energia è consumata dalle necessità quotidiane. In tempi difficili si tende a disprezzare le acquisizioni spirituali di artisti vissuti in epoche cosiddette più facili. Ma essere artisti non è di per sé abbastanza difficile. E si dice, tanto cosa ce ne facciamo? È un atteggiamento comprensibile ma miope e rende infinitamente poveri. Si vorrebbe essere un balsamo per molte ferite. Lettere da Westerbork. 3 luglio 43. Iopi, Klaas, miei cari amici, dalla mia cuccetta, che è la terza in alto, voglio ancora presto scatenare una vera orgia di lettere. Tra pochi giorni verrà messo un limite a tutto il nostro scrivere. Io diventerò ufficialmente residente nel campo e potrò spedire solo una lettera ogni 2 settimane. E dovrò consegnarla aperta. E ci sono ancora alcune coserelle di cui voglio parlare con voi. Ho davvero scritto una lettera così scoraggiata? Quasi non riesco a crederci. È vero che ci sono dei momenti in cui uno crede di non poter proprio andare avanti. Ma si va poi sempre avanti. Anche questo si impara col tempo. Però il paesaggio che abbiamo intorno appare improvvisamente mutato. Il cielo diventa basso e nero, il nostro modo di sentire la vita subisce dei grandi mutamenti e il nostro cuore diventa completamente grigio e millenario. Ma non è sempre così. Un essere umano è una cosa ben singolare. La miseria che regna qui è davvero indescrivibile. Nelle grandi baracche si vive come topi in una fogna. Si vedono languire molti bambini. Ma si vedono anche molti bambini sani, Una notte della settimana scorsa è transitato qui un convoglio di prigionieri. Visi trasparenti e pallidi come la cera. Non ho mai visto tanta stanchezza e sfinimento su un volto. A Westerbork dovevano passare, per così dire, attraverso la chiusa. Registrazione e ancora una volta registrazione, perquisizione da parte di allampanati NSB, quarantena, una piccola via crucis di ore e ore. Alla mattina presto sono stati ammassati in vagoni merci vuoti. Il loro treno è stato ancora sigillato con tavole di legno qui in Olanda. Altro ritardo. Poi 3 giorni di viaggio a est. Materassi di carta per terra, per i malati. Per gli altri, vagoni completamente spogli, con un barile nel mezzo e circa 70 persone in un vagone chiuso. Ci si può portare solo un tascapane. Mi chiedo quanti di loro arriveranno vivi. E i miei genitori si preparano a un viaggio simile, a meno che Barneveld non diventi inaspettatamente una possibilità concreta. Poco tempo fa ho passeggiato un po' con papà nel deserto sabbioso e polveroso. È infinitamente caro e ha una bella rassegnazione. Diceva con molta grazia e con molta calma, quasi di sfuggita: «In fondo vorrei andare in Polonia il più presto possibile. Così avrò finito prima e sarò morto in 3 giorni. Non ha più senso continuare questa esistenza disumana. E perché poi quel che tocca a migliaia di altri uomini non potrebbe toccare pure a me?» Più tardi abbiamo riso sul paesaggio intonato alla nostra situazione. A volte è proprio come un deserto, malgrado i fiori violetti di lupini e di coronarie e certi uccelli graziosi che somigliano a gabbiani. Gli ebrei nel deserto è un paesaggio che conosciamo bene. E così un piccolo papà tanto amabile può pesare parecchio e si perde la speranza. Ma sono solo stati d'animo. Può essere anche diverso, e allora ridiamo insieme e ci meravigliamo di tante cose. Incontriamo molti parenti che non abbiamo visto da anni, giuristi, un bibliotecario, eccetera, che spingono carriole piene di sabbia e indossano tute goffe e malconce. Ci guardiamo un momento e non diciamo molto. Un giovane e triste ufficiale della gendarmeria mi ha detto una notte in cui doveva partire uno di quei convogli: «In una notte simile io perdo 2,5 chili e non devo far altro che sentire, vedere e tacere. Per lo stesso motivo non scrivo molto neanch'io. Ma ho perso il filo. Volevo solo dire questo. La miseria che c'è qui è veramente terribile. Eppure, alla sera tardi, quando il giorno si è inabissato dietro di noi, mi capita spesso di camminare di buon passo lungo il filo spinato. E allora dal mio cuore si innalza sempre una voce. Non ci posso far niente, è così, è di una forza elementare. E questa voce dice: la vita è una cosa splendida e grande. Più tardi dovremo costruire un mondo completamente nuovo. A ogni nuovo crimine, orrore, dovremo porre un nuovo pezzetto di amore e di bontà che avremo conquistato in noi stessi. Possiamo soffrire, ma non dobbiamo soccombere. E se sopravviveremo intatti a questo tempo, corpo e anima, ma soprattutto anima, senza amarezza, senza odio, allora avremo anche il diritto di dire la nostra parola a guerra finita. Forse io sono una donna ambiziosa. Vorrei dire anch'io una piccola parolina. Parli di suicidio e di madri e figli. Certo che posso capire queste cose, ma trovo che è un argomento malsano. C'è un limite a tutte le sofferenze. Forse a un essere umano non tocca sopportare più di quanto non possa. Oltrepassato quel limite, muore da sé. Ogni tanto qui muore qualcuno perché il suo spirito è a pezzi e non riesce più a capire. In genere sono persone giovani. Le persone anziane sono piantate in un terreno più solido e accettano il loro destino con dignità e rassegnazione. Sì, qui si vede una grande varietà di persone e si osserva il loro atteggiamento verso le questioni più ardue, le questioni ultime. Proverò a descrivervi come mi sento, ma non so se questa metafora è giusta. Quando un ragno tesse la sua tela, non lancia forse i fili principali davanti a sé e ci si arrampica poi sopra? La strada principale della mia vita è tracciata per un lungo tratto davanti a me e arriva già in un altro mondo. È proprio come se tutte le cose che succedono e che succederanno qui siano già in qualche modo date per scontate dentro di me. Le ho già vissute, assorbite e già partecipo alla costruzione di una società futura. La vita qui non consuma troppo le mie forze più profonde. Fisicamente si va forse un po' giù e spesso si è immensamente tristi, ma il nostro nucleo interiore diventa sempre più forte. Vorrei che fosse così anche per voi e per tutti i miei amici. È necessario. Dobbiamo ancora condividere molte esperienze e molto lavoro tutti insieme. Perciò vi raccomando, rimanete al vostro posto di guardia se ne avete già uno dentro di voi e per favore non rattristatevi né disperatevi per me. Non c'è motivo. I Levi hanno delle difficoltà, ma appartengono anche loro a quel genere di persone che se la cavano e che hanno molte riserve interiori malgrado la loro debole costituzione. I bambini sono a volte molto sporchi. L'igiene è il problema più grave qui. Un'altra volta vi scriverò di loro. Vi accludo due righe che avevo cominciato per papà e mamma, ma che non ho più avuto bisogno di spedire. Forse ci troverete qualcosa che vi interessa. Avrei ancora un desiderio, se non sono indiscreta. Un cuscino. Per esempio un vecchio cuscino di un divano. Quella paglia è proprio un po' dura alla lunga. Ma dalla provincia si possono solo spedire dei pacchetti formato lettera, di non più di 2 chili. Forse un cuscino pesa di più? Forse, se passate da Paan a Amsterdam, siategli molto vicini, vi prego, e portategli anche questa lettera. Potreste spedirlo da là. Per il resto, il mio unico desiderio è che stiate bene e che siate lieti. Scrivetemi ogni tanto 2 righe innocenti. Con molto, molto affetto, Etty.